Allo les amis, benvenuti e benvenute al primo episodio di Extra Extra, che sarebbe anche in francese Extra Extra, e che non so esattamente cosa sia. È un mini podcast, così lo sto chiamando, è un prolungamento, un omaggio, un extra della nostra newsletter Letterature, che Leonardo cura ogni giorno con perizia e con amore verso tutti quanti noi che lo leggiamo. E invece io l'amore ce lo metto, forse questo sarà una rubrica con un po' meno perizia, con un po' più di improvvisazione, ma è qualche anno ormai che giochiamo con i podcast e ho pensato proviamo una cosa nuova, proviamo un gioco nuovo, mettiamo questi pochi minuti di audio alla fine della lettura di ogni newsletter, a tema libero, quello che succederà succederà, non lo so nemmeno io, quello che so è che però in queste prime quattro giornate questo contributo arriverà direttamente dalle strade del Tour de France, per cui io ora mi trovo in una stradina periferica e silenziosa di Rimini, via del Gelsomino, per la precisione. Mi sono messo in un posto un po' più silenzioso perché c'era ancora un gran casino e abbiamo visto quello che abbiamo visto, quello che avete visto tutti, ed è inutile tornare a parlarne, ma voglio approfittare di queste giornate sulle strade del Tour de France per farvi sentire altre voci. Spero che non siano le uniche nel corso di queste tre settimane, ma insomma questi sono giorni propizi per fare tanti incontri e quindi questo primo episodio di Extra Extra è una chiacchierata con un amico, una persona che spesso leggete in tanti, ed è Giovanni Battistuzzi, che ha passato la giornata con noi, e vi lascio alle nostre chiacchiere. E ci risentiamo domani sulle strade del Tour de France. Il primo ospite della prima puntata di questa nuova rubrica, che chissà quanto durerà, se continuerò a farla. Magari questa intervista che sto facendo ne segna subito la fine. Così brutta. Mi scrivono, non lo so, vediamo come va avanti. Ti dici che ti sto mettendo delle pressioni? No, sono abituato alle pressioni. Allora, Giovanni Battistuzzi, l'altro giorno mi hai chiamato dicendo: ma non è che voi avete un passaggio per andare da Firenze a Rimini durante la prima tappa? Ci siamo passati questa giornata in auto insieme e tu hai deciso di venire in vacanza al Tour, no? Sì, io avevo bisogno di una vacanza dal giornalismo e quindi non mi sono accreditato e ho scelto l'ultimo di venire perché, cavoli, io da bambino facevo queste cose, poi sono cresciuto e quando si cresce si peggiora sempre. Allora per un giorno ho detto: dai, faccio il bambino, faccio come con mio nonno e mio padre che mi portavano al Giro d'Italia. C'è il Tour de France, il primo Tour de France, e quindi anch'io ho deciso di essere bambino. Quindi io ho fatto tuo nonno, Pelacci ha fatto tuo padre. Com'è andata questa giornata da bambino sulle strade del Tour de France? Beh, una bomba, ho fatto per la prima volta il percorso prima dei corridori. Quindi in pratica ero in fuga da loro, e anche in fuga dall'organizzazione, in fuga dal giornale, ero in fuga. È bellissimo stare in fuga, bellissimo. Infatti ha vinto la fuga. Ha vinto la fuga, una fuga vera, una mezza fuga arrivata dopo, però devo dire che Romain Bardet, se possiamo dire, usare le parole come vanno usate, ha le palle, perché è stato l'unico tra quelli più forti a tentare l'azzardo ha pagato, trovato davanti un corridore, un suo compagno di squadra, Frank van der Broek, che non è quel Frank van der Broek, speriamo che non faccia la stessa fine. Speriamo. Però hanno fatto gioco di squadra, sono arrivati all'ultimo e agli ultimi metri con un distacco esiguo, però l'hanno portato davanti, chapeau, grandissimi, bravissimi, merita. Ma tu ci credevi che ci arrivassero fino in fondo? Crederci no, ci speravo, quello sì, però ho iniziato a dire che arrivano a 5-6 km dall'arrivo, perché ho visto le facce degli inseguitori che non erano proprio fresche, che perché c'erano 40 gradi in tutto il percorso. Pensa se loro avessero visto le nostre di facce. Beh, le nostre fanno sempre schifo, ma quello è un altro discorso, siamo sudaticci e un po' appiccicaticci, si può dire appiccicaticci? Sì, in questo podcast si può dire qualsiasi cosa. Appiccicaticci, appiccicaticci, appiccicaticci. Da siamo più o meno della stessa generazione e siamo più o meno della generazione che in un modo o nell'altro abbiamo iniziato probabilmente con un Bardet che era ai primi anni e adesso siamo arrivati all'ultima stagione di Romain Bardet, uno di quei corridori che ci ha accompagnato per tutta la nostra breve storia di narratori del ciclismo. E non so tu che rapporto hai con Romain Bardet, cosa ti ha detto questo corridore negli anni, corridore che è cambiato tanto, che alle volte ha molto emozionato, alle volte è stato totalmente incapace di emozionare, anche molto deluso e molto annoiato, però è un corridore che tutto sommato, soprattutto negli ultimi anni, ha fatto emergere un suo carattere che forse non conoscevamo e ci ha permesso anche di allargare un po' lo sguardo sulla personalità di questo ragazzo, che sappiamo che è uno che ha sempre qualcosa da dire. Io mi ricordo una volta, c'eri anche tu e dovresti ricordartelo anche tu, eravamo a Innsbruck e Philippe Brunel dell'Equipe, ancora era l'Equipe, e disse Brunel che Romain Bardet è particolare, nel senso che la gente non lo capisce, e non perché fosse scemo, perché era troppo intelligente, troppo raffinato, troppo quasi poetico. Questo l'ho aggiunto io, non l'ha detto lui, però in effetti è così. È quei corridori come Pinot che trascendono dal risultato, non conta se vince Bardet o perde Bardet, però sei sicuro che in ogni corsa tappe che farà Bardet è lì che ci prova, che sbaglia, che va in crisi, che il giorno dopo si riprende, che dopo due giorni magari vince. Però è un corridore talmente non banale che magari non lo capiamo, e non lo capisco neanch'io, non lo capisce nessuno, però alla fine gli si vuole bene. È come l'amico, quello mezzo matto e mezzo scemo, però intelligente, simpatico e che ci sa fare. E Bardet è quella cosa per me, infatti adesso dopo Pinot finisce Bardet e smettiamo di scrivere. Sì, questo l'abbiamo già deciso, però sì. Così ascoltandoti pensavo, come chi osa questo ragionamento, che viviamo un'epoca di ciclismo magnifica, di campioni straordinari, ma tutta improntata a fare tutte le cose in un modo perfetto. Oggi ha vinto forse un portabandiera dell'imperfezione, sì. Una bella rivincita. Sì, all'imperfezione ha vinto oggi. Bardet è non è un campione, ma è un ciclista imperfetto e proprio per questo meraviglioso, capace di appassionarti. Quindi Bardet mi fa piacere quando vince e mi fa piacere anche quando non vince, quando si butta via, quando fa l'azione idiota. Cioè di Otta lo dico io, lui sicuramente avrà dei motivi buoni per farla, quando sbaglia il tempo, perché è un po', sei un po' tu, sono un po' io, delle persone che si arrabattano in qualche modo a fare il meglio possibile, ma che per una distrazione, per un errore, per l'imbecillità nostra che ci abbiamo dentro, sbagliamo proprio lì dove non dovremmo sbagliare. E Bardet te lo ricorda e ti ricorda che cavolo, cioè sei mica Van Der Poel. E va bene così. Questa giornata di Tour de France sulle strade d'Italia, questa giornata in strada, in fuga, come dicevi, mi riassumi veramente in tre parole, in un minuto, in quello che vuoi, qual è stato il bello di questa esperienza di strada? Il bello è stato non dover pensare al dopo, alla fuga al quartier tappa, al dover scrivere, al dover farlo nel miglior modo possibile, nel minor tempo possibile. È una vacanza, cavoli, è vacanza, è quasi luglio, c'è il tour, va bene così. Possiamo ringraziare Aso per aver portato il Tour de France in Italia per farci fare un giorno di vacanza. Sì, grazie Aso, è stato meraviglioso. Tornate presto, siete sempre i benvenuti. No, va, grazie Aso perché il Tour de France non l'abbiamo mai visto, cioè l'ho seguito 2 anni all'estero, in Francia ovviamente, però è come la casa delle finestre che ridono di Pupi Avati. Fa paura, non perché fa paura perché è l'ambiente che tu vedi, Cioè, è un horror in Italia, non è l'horror americano dove comunque non sai se è veramente così. E lì c'è quel timore, quell'ansia, quello stato di non di paura, però di fastidio, perché è casa tua. E il bello di questo tour è che è a casa nostra, sono le nostre strade, quelle che magari hai fatto per andarti a imboscare o per... in bicicletta per fare un giro o per andare dagli amici in trattoria, e sono quelle strade lì, però è più bello perché è tutto giallo e c'è il Tour de France. E che cavolo, luglio è il mese più bello dell'anno perché c'è il Tour de France, è l'infanzia, è che ho parlato troppo. Allora basta, anche se abbiamo parlato troppo bene di Aso, troppo patriottismo, chiudiamola qui. No, apatriottismo. Siamo francesi? Siamo svizzeri. Svizzeri sì, francofoni. Sì, sì. Va bene, au revoir Giovanni. Et au revoir Filippo Caus. C'est fantastique. Allez, merci.